50 e mi dici, allora se mi ascolti bene che ho montato l'antenna nuova. Dimmi quando sei pronto. Siete tutti ammassati, quindi basta che uno si metta a fianco e corso la fotografia, siedo giù in officina per vedere se è diverso, perché guardandoli sono tutti uguali, cambia soltanto il colore dei tasti, a memoria mia. Ma sono CCB, CCB, però devi avere USB, a meno che non c'hai l'SSB e poi c'è qualche altro pulsante che ti sposta sia in L che in U. Io adesso non ce l'ho davanti il tuo, ma il mio è, c'è il pulsante ognuno per ogni banda, come tutte le radio, ma se tu, che versione è chissà? Cosa c'hai scritto tu? C'è scritto transceiver ICOM IC 7000 al mod, quello che hai tu? Ma c'è scritto communication receiver ICR 7000 e bu. C'è communication, mi ce l'ha fatto la diverso, allora la mia. Io c'ho scritto come tutti gli IC, c'è scritto IC, ICOM IC 7000 al mod. Alt mode, c'è scritto. Alt mode. Ok. Guarda. Nuovo scritto communication, cosa devi comunicare? C'è scritto ICOM e poi dopo ICOM c'è scritto communication receiver ICR 7000. Però la cosa stava, l'SSB deve essere alta o bassa. USB vuol dire bassa, cioè l'SSB vuol dire bassa, USB alta. Però dovrei commutare, ci sarà un tasto di comunità, perché qua poi c'è scritto mode, tu ce l'hai queste scritte a sinistra, dove sono raddrizzate, c'è scritto mode. Guarda, aspetta che io prendo, allora questo lo chiudiamo, aspetta vabbè, perché voglio rendermi conto di una cosa, che versione c'hai tu? Oh, allora, adesso digitiamo IC, ecco qua, IC, ma no, niente, IC, un par di palle. Allora facciamo ICOM Italia, voglio vedere quale hai tu, ICOM, allora 7000, eccolo qua, vediamo. Aspetta, che voglio dire una cosa, perché ci sono due versioni, che versione c'hai tu? No, versione ce ne sono tante, ma io qua adesso c'ho il manuale Miduso, che l'ho scaricato da internet, che è una versione più recente del mio, e ne ho stesso 4 di tasti. Tu dove c'è la tastiera, quanti ne hai di tasti? C'è scritto AM, FM, FM 30, SSB, io c'ho scritto, e qua è la stessa cosa. E ci fai? C'ho i pulsanti USB e BBA. Non lo so. Guardi, sto guardando adesso le istruzioni se si vede qualcosa. Allora, cosa c'hai tu alla tua sinistra? I due potenziometri, ok. Poi c'è VBG, eccetera. Allora, poi, dimmi cosa c'hai tu. Allora, io qua c'ho la fotografia del manuale, l'ho scaricato da coso, da internet. In alto a su ci sono due manopoline, una c'è scritto speed e l'altra c'è scritto delay, che ho capito cosa sono pure. Ok, alla tua destra c'hai 1, 2, 3, 4 pulsanti, ok, dove c'hai AM, FM, larga e stretta, SSB, ok. Sotto c'è un altro pulsante, sotto. No, sotto non c'è niente, nella tastiera c'è scritto, dove c'è scritto remoto, dove c'è il coso del telecomando, non c'è scritto, non c'è niente, sotto c'è il memory, il potenziometro, poi c'è scritto write, clear e poi il coso, la scala, come si chiama, per riportare l'impasto di frequenza, un altro commutatore. Esatto, e se non ci siamo come il mio. Allora tu c'hai questo communication, ricevi ICR 7000, questo me l'hai detto tu. Vediamo intanto di che anno è questa serie. Allora, questa serie è del... Allora, questa serie, vedi che ce l'hai? le demodulazioni disponibili permettono la ricerca dei segnali FM larghi e stretti AM, SSB, barra USB, LSB. Ok? Allora, se noi andiamo a vederci il clip di inserimento frequente, che è questo, allora tu devi cliccare su SSB e poi fare Enter per far entrare sia la U che la V, cioè sia la USB che la LSB. Ha fatto così, infatti sono, ho schiacciato la frequenza SSB, Enter, cioè, però come fai a commutare le due bande laterali, l'inferiore e la superiore, come ti fai? Portando SSB. Ho fatto con SSB, però non me lo dice, aspetta, riprovo, scusa. No, niente qua. E non deve fare solo a fare SSB, a meno che non lo faccia in automatico, ci abbia un tasto, aspetta, scusa. Perché poi c'è scritto mode a sinistra, non l'hai visto tu? Dove c'è scritto memory, c'è scritto mode pure. Allora, aspetta che sono nella pagina mia, questa è la pagina tua. Dove c'è scritto mode? Esatto, esatto. Allora, clicca SSB e piglia mode a vedere se ti cambia da USB a LSB. Aspetta un attimo. Scusa. Questo è strano però, ma dimmi tu. No, il mio no, perché qua dice le demodulazioni disponibili permettono la ricerca dei segnali FM larghi e stretti AM, SSB, tra parentesi, USB, LSB e CW. Gli incrementi di sintonia si ottengono da un minimo di 100 kHz a un massimo di 25, da 100 Hz a un massimo di 25 kHz, che è come il mio. Se poi vai a avere le caratteristiche, gamma operativa, eccolo qua, configurazioni. Le configurazioni praticamente, eccolo qua, in banda sono SSB, AM, FM, FM stretto. FM stretto. Perché SSB e MFM sono tre conversioni, FM stretto è due conversioni. Secondo me tu hai il modello prima del mio. Sì, ma Claudio, anche se c'è il modello prima del tuo, come ti vuoi a commutare le quattro SSB? Però l'SSB esita bassa e alta, ci deve essere un modo di entrare, non significa niente SSB così, non le posso ascoltare tutte e due contemporanea. Perché la tastiera, io sto guardando la figura dell'istruzione di un altro modello successivo al mio, che c'ha i tasti cromati, anziché avere la manopola come la mia, c'era diverse. E le precise identiche, le funzioni sono tutte uguali, non cambiano la virgola. Ascolta me, vabbè, quello è il puntino, quando tu digiti la frequenza poi c'è il puntino. C'è il tasto Enter. E prima dello zero, a fianco a Enter, c'è un puntino. Tu c'hai un puntino, clear, tu, per forza entrare USB e SSB. Non c'è Massimiliano in ascolto, ma mi sembra strano. Attenzione, Archimede. Massimiliano c'ha proprio l'ultimo modello, l'ultimo, quello che cambia la scritta, ICOM è scritta di questo modo. Io ho il modello dopo il suo, tu c'hai il modello ancora dopo il mio, cioè prima del mio. Io ho il modello prima del suo, tu c'hai il modello ancora prima del mio. Sì, lo capisco, però gli apparati là sono precisi, almeno a livello di tastiere, magari qualcosa di prestazioni può cambiare, l'hanno migliorato per certe cose. Le manopole le hanno modificate, però le funzioni sono precise e identiche. Esistono quelle per il mercato, mi sembra francese o americano, che anziché arrivare a 2000 come questa arriva a 1300, solo quello cambia. Però ecco, l'SSB la devi commutare in qualche modo, sennò a cosa serve? Oh Claudia, proprio fa una prova invece. Prova? Cos'era la frequenza? Guarda, è quella in 6 metri. Quella che mi hai detto poco fa, 50? 150. Prova Claudio, il coso, e al contrario, tu eri USB, cos'è USB o al contrario. L2SB, provo in LSB, vediamo. 50-150, aspetta, cambio il mode. Sentito adesso. Aspetta che ti stavo concentrando, parla, fa un passaggio più lungo. No, devo essere molto spostato tu. No, io sono a decimale zero, ti ho detto centrami tu, perché se mi sposto io sono a 150.00, centrami tu e dimmi dove mi devo mettere. Ma è una prova di ricezione, quindi mi devi cercare tu, non mi posso spostare io, sennò come fai poi tu? E appunto per quello, aspetta, puoi fare un altro passaggio lungo e vediamo un po'. Bene, ti sento, stai parlando, però non riesco a sentirti bene, non riesco a capire per quale motivo. Ascolta, io invece sto pensando a un'altra cosa, adesso io faccio una prova in FM, ok? Sempre 50-150, faccio una prova in FM. Ora ho l'impressione che tu non c'hai le schede aggiuntive lì. C'è solo l'SSB come linea, però ti mancano le schede U, L. Perché attenzione che il 7000 è tutto opzionale, tutto opzionale. Aspetta che faccio un passaggio in FM, se tu mi senti in FM, metti in FM, se tu mi senti in FM, quella radio non c'ha i filtri dell'SSB. Aspetta. Ora io parlo in FM, guarda, metti in FM. Sì, perfettamente. Allora, risolto il problema, amico mio, tu non c'hai la scheda della banda laterale in quell'angolo, vai. Perché se no deve commutare, per forza. Ti manca la scheda della banda laterale, come a me mancava la scheda dell'FM, e allora lo potresti dire. Già chieda chi me l'ha venduto, che è tanto un riparatore, cioè quello, c'è un laboratorio che dà informazioni. Sì, vabbè, prova a chiederlo, perché secondo me ti manca la scheda, a me mancava quella dell'FM. Infatti, facendo le prove, aspetta che le metto come era qua, USB, eccolo qua, facevo le prove e nessuno mi ascoltava, dicevo vai, non stai scendo, vai, non stai scendo, ma no, i compagni che ci mancavano i filtri dell'FM, tutta la scheda dell'FM ci mancava. Ma sicuramente te lo fa in automatico, come schiacci SSB ti commuta in automatico la superiore o l'inferiore di banda. C'è la scheda, se c'è la scheda di commutazione, se non c'è la scheda di commutazione non te lo fa. Credo, bisogna chiedere a Massimiliano, ma credo che sia così, perché il mio era così. Io mi tocciamo di uffino, c'è anche la scheda foneme, questo qua c'ha nel catalogo, c'è scritto il telecomando, un sacco di cose. Non c'è un ricevitore, ma stai scherzando. Aspetta, mi metto la pagina dove era prima. No, sono uguali come radio, vabbè, sono uguali, stavo guardando, sono uguali. Solo io c'ho la tastiera, mi sembra c'è un tastiero in più. Quanto niente, 4 o 3? 4 o 3, no, è uguale, Claudio. È preciso identico, cambiano soltanto le colorazioni di questi apparati. Il mio è quasi nero come colore, grigio scuro, ora più scuro per 4,40, mentre i modelli più recenti sono un po' più sul grigio chiaro. Io sono il verdolino, il mio è il verdolino ICOM, verde ICOM, verde ICOM, capito? Non è né nero né grigio, è sul verdolino. Ma è frontalino, sta dicendo? No, è sul verdolino e la cassa è sul verdolino lo stesso. No, la cassa è sul verdolino, ma il frontalino è nero questo. Eh sì, anche questo è nero, hai ragione, metto la cassa sul verdolino, sì. Poi il mio c'ha il manopolone con quella specie di, come si chiama, di cosa per tenere il col dito, mi hai capito? Sì, sì, sì, il wifi con, dove come il 430, dai, che metti il dito là per fai girare, sì. E per quello il mio è un po' più vecchiotto, poi le altre versioni non ce l'hanno così, ce l'hanno tipo il 440, normale. Il mio c'ha il foro, anche il mio c'ha il foro come il tuo, quindi sono la stessa versione. Però io ti ripeto, avevo tutte le schede adesso, quando l'ho comprato, no? Infatti proprio con Massimiliano ne avevo parlato, con Massimiliano io l'FM non ricevo. Ma ho detto guarda che allora ti manca la scheda. Ho secondo me a te manca la scheda colpito dall'SSB, ecco perché non agisce. Capito? Ora sì che sia anche così. Diciamo, non è che me la fotte assai più di tanto, perché tanto c'ho l'altro davanti a pareti per sentire eventualmente. Vabbè, se metti con il 440 non ci posso andare, ma c'ho l'altro ricevitore, ma non è che mi frega più di tanto. Vabbè, non te lo consiglio, perché io pagai la scheda dell'FM, che poi tra l'altro l'ho presa usata, me l'ha portata un amico dalla fiera di Coso, di Milano, no? Quello che sai perfettamente, quello che abita su montagna, e mi è costata 180 euro la scheda, quindi quella dell'FM, quella dell'SSB è doppia, perché c'ha L e U, e poi c'è il filtro da inserire, stretto e largo, a 1800, capito? Quindi non so quanto costi, io penso che costi più sicuramente di 250 euro. Ma non me ne ha fatto nulla, non mi interessa, sinceramente va bene così. Per quello che serviva a me, sono entusiasta della ricezione, è fenomenale. Ti sto dicendo, io la controprova l'ho fatta cercando questa stazione francese, due stazioni francesi, anzi vabbè, una francese e un'altra italiana, che era impossibile, non avevo mai ricevuto con nessun ricevitore di qualunque genere. Con questo, poco a poco però sono riuscito a agganciarla. No, ma ne abbiamo già parlato, poi c'è il verificatore d'antenna. Quanto ce l'hai tu? A 5, 10, a 15 dB o a 10, 20, 30? Ma dove c'è l'amplificatore d'antenna? Spiegami. C'è l'amplificatore d'antenna tu nel 7000. E dove? Spiegami. Qua c'è attenuatore, remoto, NB, dove ce l'hai? È scritto 3. No, non ce l'è qua. Dalla tua parte sulla meta non c'è quello 10, 5, 10, 20, o cosa, il mio fa 5, 10, 15 dB, capito? Che puoi fare sia attenuazione che per verificazione. Oh, quel tantino dove c'è scritto 0, 1, 1, 5, 10, 12, 5, 25, quello lì sono i passi di sintonia. Ma anche quello c'è un altro potenziometro, dove c'è scritto? Io ci ho scritto 5, 15, 20, cioè 5, 15, 25. Non ce l'ho quello. Poi ho soltanto questa la scansione, diciamo, i passi di canale. Beh, bisogna vederlo bene, bisogna metterli vicino a vedere che cosa manca. Gappa gappa. Comunque le versioni sono quelle. Secondo me ti manca la scheda. Ti manca la scheda, perché me l'ho fatta in FM. Me l'ho fatta in FM. La stessa cosa, come quando io ho preso questo 440, praticamente se sentivo voci male, tutti distorti, ho detto ma cosa mi ha raggiunto, io ho comparato, e c'è vero, ma c'è l'affare dei filtri giù, no? Anziché essere in automatico, era a metà, e siccome c'ho tutti i filtri, io non lo sapevo, c'era il filtro stretto, sentivo tutti, come la gagana, giù comparato. Sì, no, lo devi mettere in automatico, anche io ce l'ho quello dei filtri, quello che mi hai dato tu, devi lasciarlo in automatico, se no magari senti tutto distorto, perché c'è largo, stretto. Sì, sì, ma quando ti ho detto c'è la scheda FM, no? Ehi, a me, esatto. 27.0.7.5.0.0. Sì, sì, invece io qua la scheda FM non li ho fatto mettere il filtro per la M e per l'FM, e poi ci sono i due filtri stretti e larghi per la banda laterale. L'ho completato perché l'avevo preso per usarlo come HF, proprio in banda amatoriale, poi invece ma adesso sto usando molto il 430, sto usando molto il 430, ma sto usando anche questo qua, quindi va bene così. Non ti stavo dicendo, io ho chiamato Carlo di Chiaramonti e mi ha detto che lui già ha in versione in italiano, però non l'ha fatto copiare, capito? Infatti gli ho detto dimmi quanto ci vuole per le fotocopie, ti ho detto non c'è problema, io te lo faccio e poi quello che ho speso mi dai. Se mi fai favore, perché io sono in inglese ma non è molto chiaro, perché ci sono delle funzioni che non ho capito, quello della scansione per dire, Ho capito cosa servono quello speed, quando portate l'altra a sinistra, c'è speed quando ti memorizzi i canali, così, cioè i 20 canali memorizzati ti fa, ti aumenta la velocità della scansione dei canali memorizzati. Però voglio fare la scansione per dire importare per dire, da 300 a 500 MHz e farlo così, quello non ci sono riuscito a entrare. Se non sono riuscito neanche io, evidentemente c'è qualche altro passaggio con l'enter. Mi sembra facile usare quel ricevitore, ma non è così facile, sono mille funzioni. E come vai tu nel coso con set praticamente ti sposti per una volta che c'hai impostata la frequenza, o vai direttamente col VFO o con la manopola per capirci? Con la manopola scrivo la frequenza e poi mi sposto, mi metto i passi che mi interessano da 0, 1 fino a 25 giri. C'è quello di buono che c'è il computatore, mette nel coso un R3000, lo devi impostare sulla tastiera i passi, devi perdere tempo, poi ti devi impostare la cosa, devi fare troppi giri. Questo è quello, perché è tutto a portata di mano, per quello che mi piace, è molto più veloce. Con l'R3000 ti rompi le scatole, perché devi entrare nel menu, sotto menu, le scansioni per dire imposti il punto da A e te lo guardi lì, passi di coso, il tipo di modulazione e tutto qua, invece c'è il tastino, schiaccia e buh. No, ma è un altro pianeta, la 7000, l'R3000 è un giocattolo rispetto alla 7000, vabbè, ne abbiamo già parlato, poi vedi come ha fatto il 7000, è già un apparato, un ricevitore a sintonia continua praticamente, con i passi che ti servono e c'hai tutto. Ma l'unica cosa che chiedi a questo tuo, dove l'hai comprato? Dici, ma scusi un attimo, io ho posto SSB, vuoi andare a ascoltare le USB o le LSB? A volte capita che c'è gente, come non mi fa cambiare? E sicuramente ti dirà, non c'è la scheda dell'SSB, perché è possibile, commuta automaticamente, quando tu imposti SSB e poi carichi nuovamente un'altra volta SSB, ti dà sia U che L. Per forza deve fare così, come fa il mio. Però che siccome va un bel di tasti dietro questo mio, non va già che tasto da rete? No, dietro c'è il delay, c'è l'attacco per il computer, ci sono un sacco di attacchi, ma io non ne ho mai visto di attacchi USB e LSB. Però oggi già te la controlla, vabbè, già ti sei muovo, guarda, io non l'ho mai guardato, sinceramente. Prova che come stai dicendo tu ci sia un tattino che ti indica metti SSB e ti indica USB e l'SB dietro, prova. Cacchio, è così Claudio, mi tacco il numero 30, il numero 50, commutatore, questo selettore controlla USB o LSB a seconda dell'operazione dell'operatività in SSB, mi cerco più dietro, c'è la fotografia, c'è un tastino dietro, infatti mi barriera che non ha una cosa del genere, mi va a la pure tu dietro, c'è un pulsantino proprio, il tacco numero 30, c'è scritto USB, LSB selector, switch selector, questo controlla in inglese, lo sto leggendo, la selezione di SB o LSB a seconda dell'operazione di trasmissione. Ce l'hai spento tu quello lì? In che posizione ce l'hai? L'ho girato anch'io. In che posizione ce l'hai tu quel tasto? Buonasera a tutti. Chi è? Falchetto, buonasera. Sì, ciao Falchetto, la prima stavo dicendo una cosa. Addirittura qua dietro c'è un altro tasto, c'è scritto FM selettore, un altro tipo di FM c'è pure, a 15 kHz e a 150 kHz, a 6 kHz e a 15 kHz, dietro. Ti ho chiamato poco fa, vabbè, la tua versione è quella lì, io invece ce l'ho davanti, però quel tasto io ce l'ho in posizione automatica, tu ce l'hai chiuso. Ah, non l'ho mai visto, siccome questo c'è anche una modifica per decryptare dei segnali particolari, il telefono era montato su roba professionale, non era in cose normali, civili, da. Aspetta che guardo dietro, ma lo guardo per curiosità. Sì, va bene. C'ha il selettore quello dietro, c'è il selettore. Sto guardando anche io. Guarda, io sinceramente la prima cosa che mi hai detto, l'ho girato e ho visto che... Però il mio commuta, evidentemente io ce l'ho nella posizione automatico, tu ce l'avevi spento, chiuso, ecco perché non ti commutavo. Però vabbè, poi facciamo la prova, poi se mi senti, se metti in USB. E beh, ok, ti ha maniato, eh. Vale, mangiato, mangiato. Sì, sì, sì. Tu non hai mangiato? No, mi manco ho cenato. Ho detto io di aspettare almeno fino alle 9, perché sennò poi a Londra ti voglio dare a fame. Siccome ho pranzato tardi a... è un bel di roba, non avevo fame ancora. Poi sono rientrato, poco fatto, ho detto la porto a accompagnare il mio collega, mi ho preso la macchina per domani, mi ho preparato già la roba, tutto, cartelle e cartelline e triche e ballacche, e quindi ho perso un po' di tempo, però ti ho chiamato, pensavo avevi chiuso, va bene. E io già pagato, no, sono qua, quando chiudo già lo dico. Ma sei rimasto al convenito, poi sul canale 5, altra gente è entrata. Ah, lo so andato, lo sai. Non mi hai capito, ragazzi, ti dico dal verticale, non preoccupare. Ho capito. No, io sono dovuto uscire. Va bene. No, volevo sapere se Benito aveva fatto altre prove, altre cose. No, poi Benito ha chiuso, poi sto parlando io e Pomponio. E niente, poi io ti spiego qua. Sì, va bene. Ma lì c'è ora di venire comunque. Vabbè, comunque, a me non mi interessa più di tanto, io lo sai. Vabbè. D'accordo, non voglio polemizzare con nessuno. Va bene così. Allora, Robert, ti hai già combinato? Sì, già ce l'ha. C'è due tipi di cose, c'ha due selettori, poi c'ha un altro interruttore, non so capito a cosa sia, perché c'è scritto spare jack, non connesso, però c'è scritto qua. Poi c'è questo FM, esattamente lo chiamano, il tasto 51, FM 1 e 2 selettor, opera in modo stretto e largo, poi ci sono, ti cambia la, come si chiama? Forse si chiama la frequenza di taglio, forse altre stretta e larga probabilmente, perché qua ti dà di frequenze diverse, ti dà 15 kg e se comunque c'è il tasto dietro, e poi c'è, vabbè, tanti, c'è un po' di roba dietro, adesso lo sto guardando qua nelle figure, però c'è il tasto proprio che premi, c'è scritto USB e LSB. Sì, ce l'hai dietro tu il tasto, lo so, però ce l'hai dietro anch'io, però uguale a quello lì. So che io commuto anche la lavante, perché c'è un pulsante in più. Evidentemente il mio lavoro è in automatico, io ce l'ho on, off mi chiude il selettore, praticamente non mi fa commutare le due bande. Sì, ma sono uguali, dai. Mi sembrava strano, qualcosa c'era, hai detto bene, che hai guardato dietro. E va bene. Qui sono le stesse versioni, però magari sai, quella è fatta un anno prima, bisogna vedere, comunque i ricevitori sono uguali perché li ho controllati al computer, sono uguali. Lì ce l'ho anche io dietro la commutazione del selettore, forse quella commutazione del selettore manuale, bisogna invecchiare da Massimiliano e lui se ne intende di più, non ti posso dire cazzate. Comunque io pigio e mi dà tutte le bande direttamente dal frontalino. Quindi qualcosa c'è, l'hanno modificata, questa non lo so, questa era di già pulito in verticale. E quella ci aveva Luca Flipper, capito? Mi ha giubilato tutto, d'ora ci ha venduto d'ora tutto, mi si è attaccato e gli ho portato via tutto, 140, tutto quello che aveva. Ok, ecco l'altra persona che conosciamo, già pulito in verticale, ci ha venduto tutto. Tutto. Ma quello per capirci di Ottava? No, l'altro. Ah, perché quello di Ottava c'ho tutto io, C'ho tutto io, Robert. Abbiamo fatto un blocco. C'ho tutto io. Tranne il 440 perché l'ha preso un amico, dai. Eravamo già d'accordo. Avanti, Falche. Falche, grande re della montagna. Positivo, compro, vendo e scambio. già va bene. Allora io niente, ho caricato, adesso sono in radio, adesso ho detto di stare in radio, caspita, ma tu adesso quando carichi non lo rientri più, credi? E anche io esagerò. Sì, sì. No, io vado a fare anche alle 5. Non mangio problemi. Io prima di mezzanotte non mi corico mai, invece a mezzanotte. Guardo un po' di TV. Qui adesso è piacevole perché c'è fresco, capito? Stando in radio c'è fresco. Quanti gradi ci sono? Ehi, 24 gradi, diciamo, rispetto a come modulavamo la settimana scorsa, 26-27. Si sta benissimo, c'ho anche la magliettina, guarda, di lusso, di lusso. Quindi è piacevole fare due chiacchiere dopo cena, capito? Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Cappa di roccia. Eh sì, in effetti... Ho visto che la mattina c'è un sacco di lettore. Guardi, potrebbe essere che si sia abbassando un po' la temperatura. Cosa dici? Sì, sì, vedo sempre la macchina bagnata. No, io vedo la mattina per non sbagliare. Anziché uscire a maniche corte, mi ho preparato la camicia a maniche lunghe, pantaloni puliti, scarpe da tennis, tutto bello ordinato, e mi pongo la camicia però a maniche lunghe. Se è vero che mi porto la polo a maniche corte, se vedo che a metà mattinata c'ho caldo, mi fido la polo. Però io domani mattina esco a maniche lunghe, perché poco fa sono uscito nel poggiolo, cazzo, c'è freddo, c'è freddo, c'è freddo. Salendo a Polotorese ho tirato su un po' il finestrino, a chi vedo fresco. No, vabbè, e tu mi hai detto che stamattina ti hai fatto il bagno, così è. Ma guarda, stamattina stava veramente bene al mare, poi stasera verso le 5, vabbè, forse non era neanche 4:30, ce ne siamo saliti perché quella sera adesso inizia il sole a abbassarsi, più in fretta, rispetto a prima, c'era col maestralino, il venticello l'ha detto, io sono andato a casa, vabbè, sei andato in bilo malato, però stava veramente, l'acqua non era neanche calda, cioè non era neanche fredda, stava veramente bene, dopo su era bello, piacevole. Che lo pesce, tanto, a farci il bagno Roberto, a fare il bagno K. Vabbè, già va bene, adesso toccherà a me, se Dio vuole fra poco già entriamo di nuovo, vediamo se riusciamo a tirare fuori qualche cosa. Per me è un buon boom. Senz'altro la prima cosa che faccio, il mio primo pensiero a te, lo sai. Ne ho visto uno, Roberto, l'altro giorno, è Antò. Ce l'aveva, perché a me mi chiama sempre questo pescatore, sabato mattina, che sale da Porto Torres, fa il carico dei buzzi, no? E poi si fa il giro, se la c'è un cliente, mi ha chiamato, mi ha detto qua, c'ho orate, spigole, mi ha detto, cozze, arcelle, tutte le sale veloci, come detto c'è un po' di calamari. E poi passa, insomma, il vero che non siano, molti perché ne ho ancora in fritta. Passa. Ci ho messo che erano 80 centimetri lunghi che calamari. Il corpo mi piace più a me, non so a te Roberto. Vabbè, sono due cose diverse. A me i calamari fritti all'anello con la fragante della morte sua, poi ci sono i calamari, arrosto, tutti i modi inviati. E il polpo la stessa cosa, dipende, sono due cose diverse, ma mi piacciono tutti e due in un qual modo. A me mi ha già fatto la sorpresa, arrivare, sono sceso dal portatore, da guardarmi la barca, e ho visto roba sulla barca mossa, ho detto che strano, io ho messo tutto in ordine, non lascio mai disordinato, e stava visito, me l'hanno curato l'erica, un'erica costa una barca di sud, bastastica. Ehi, l'erica, lo sai cosa vuol dire staccare un'erica qua? Il lavoro che bisogna fare, il rischio che ti prendi e viene un bel male perché il motore è sollevato, non ci arrivi dalla barca, non lo puoi fare, hanno mollato le cime, se l'hanno avvicinata, hanno fatto, cioè devono aver fatto per forza così perché è impossibile che se no riesci a togliere l'erica. È una cosa allucinante, Giove, una cosa allucinante. Il mio cognato c'ha ad Alghero, lì al porto di Alghero, c'è dove sono tutte le barche, quelle a vela e cosa, c'è un 64 piedi mi pare che sia, abbastanza grande, due alberi, e l'ha portata, l'ho accompagnato io, siamo andati a Carloforte a prenderla, quando ti ho detto che dovevo andare a Carloforte, non tu. E quando è? Questa domenica, scorsa, è arrivata la figlia che studia fuori a Londra, c'è una bellissima giornata che Dugato qui vera, se poi arriviamo siamo a fare un giro in barca, non prenderla, mi hanno tolto il timone, quello grande che c'è a poco. Addirittura, pure avete demoni, Sono ancora costando dei soldi, non c'è in università, perché costa un sacco di soldi, in carta dura lì, raga, dopo riesci, e non ti vai a... Ah sì, c'è stato demone. E non c'è buono, è per la moglie a tu. È una serenata in giro, cazzo. Poi quando li picchi, cazzo, li fai male, cazzo. Si lamentano, cazzo. Ma guarda che gente delinquente, va. E poi proprio, guarda, l'altro sport l'ha fatto. Ma tu lo sai, non solo me, ma anche altre barche hanno aperto, che hanno rubato lo scandaglio, che hanno rubato l'attrezzatura di bordo, eccetera. Allora lì nel pontile dove, nei puntini, nei vari puntini che ci sono, hanno messo le guardie giurate di notte. Ehi, ma se li pizzicheggia, nega che lui si fa di mare a vedere chi vede. Chi vedete un bel cazzata perché tu immagini, se ne fanno la timoniera, ti portano via tanta tua di bordo, periodo di agosto, tutti chiusi in ferie, come fai a ordinare la roba per uscire a mare? Un casino. Era disciplinato questo. Posso immaginare. Ma io lo posso immaginare, infatti ci vuole sempre la guardia giurata. Si fanno sacrifici, si mettono tanto per uno, però è sempre meglio che ci sia qualche guardia giurata che controlli, perché guarda, stiamo arrivando al punto di... Stiamo facendo schifo veramente, guarda, attaccarsi alla roba che questo non so, riprende robe. No, ma una cosa strana, secondo me è gente di lì. Gente di questi che controllano, perché è impossibile, è un rischio troppo grande e addirittura a me non l'hanno aperta dentro nella cabina, perché non dico che te ne vuoi, però ci sono le dotazioni, ci sono altre cose dentro, c'è qualcosa da rubare di valore se vuoi entrare, manco Ducata, sono entrati a prendere, quello è un furto su commissione, perché è un'erica particolare, siccome le ricche in acciaio c'hanno altre prestazioni eccetera eccetera, io me l'ho avuto un mezzo presentimento, siccome l'ho verniciata di nero per camuffarla, perché per farla sembrare l'alluminio l'ho verniciata di nero, e quando l'ho trovata la tabella l'ho visto, ho detto che ne sta uscendo la vernice, ho detto devo dare un'altra spruzzata, ossia che magari me ne la cura, e lì sarà andato ieri e me ne l'ha bistigata. Tu c'è praticamente il motore fuori bordo. Ehi, ha il motore fuori bordo, però il motore c'è il trim, lo tieni sollevato, non ci riesci dalla barca a lavorare, cioè dovresti metterti, siccome anche il pontile è abbastanza alto, non so come abbiano fatto loro a cambiare, a staccarla, non ne ho proprio idea. Che il timone mi ha cogliato come ho staccato. Io ho fatto un po' dal motore al piantone, quindi non so come sono idratato, come lì non ho visto niente asciù. Non so come agiscono questi delinquenti. Ma è un problema grande, cioè la barca, già per mantenere una barca al pontile devi pagare un sacco di nato, e più te ne rubano la roba, alla fine, cioè casa loro non è più un pontile custodito, è un pontile di ladri. No, ma la cosa bella, ci sono le telecamere, eh? Dico, che bello, no, le telecamere sono spente. E la cosa di aria video se lo sorvegliate, avrei scritto. E beh, niente di strano che si siano avvicinati a qualche gommone a Rimini e possono lavorarci così o no? Cosa dici dopo? No, no, è possibile, il gommone non può passare perché io entro di poppa la barca ed ha il motore verso il pontile e sono a fianco della banchina, cioè la banchina rispetto alla barca risulta almeno un metro e mezzo d'altezza e non ci puoi arrivare. Però ieri quando sono arrivato io l'ho vista molto strana lì di cime, ho detto boh che strano, mi hanno forse spostato le cime perché c'era mare, ho detto magari le hanno allungate. Però adesso pensando, secondo me loro hanno ammollato le cime di prua per farsela venire tutta in via, che uno teneva la barca tirata e l'altro smontava. Perché non hanno avuto niente, hanno lavorato, c'erano i guanti, hanno lavorato bene, mi hanno pigliato i guanti, c'è un paio di guanti quando vai a pescare quei guanti in lattice grossi, e hanno idratato pure i guanti. Porta su commissione senz'altro. E poi se tu hai notato che gli mancava la vernice, loro prima l'hanno come si dice, grattata, deve essere d'alluminio, capito? Una vista dell'alluminio o dell'acciaio che sia, e tu stessi chi bisogna farla, capisci? Una cosa è sicuro, quell'erica va bene solo per pochi motori, si l'acciappo uguale. Perché ridiamo forte, e quell'erica lo sento costava di circa 3 milioni, non l'ho pagata così, me l'hanno data a me, a prezzo diverso, ho preso in blocco 3 eriche, una in acciaio e due in alluminio, e un'erica molto molto particolare perché è un'erica di altre prestazioni, della competizione, e non rimane in giro di quell'erica lì. Infatti, devono camuffare molto ma molto bene, meno male se avevo un pezzo di carta dove mi ho preso tutte le misure che ci sono scritte, il passo, il diametro e il numero di matricola. Così faccio una prova, domani adesso devo andare dai carabinieri, ma ti rimane, sono andato a fare la denuncia ai carabinieri, no, non c'è nessuno, ci deve passare di sabato sera, in altri momenti in orario ufficio, cioè, mi hai mai inteso che devi fare una denuncia in orario di ufficio? No, vieni direttamente lì a Polo Torres, andavi in capitaneria, tutto il primo di agosto, credo anche fino al 30 settembre, la Guardia Costiera ha attivato l'ufficio apposta per le denunce dei natanti. Quindi, la faccia civile fanno prima, perché loro sono in mare, fermano più o meno chi può montare quel tipo di elica, controllano la matricola di foto. Io ho chiesto, dice no, la Guardia Costiera non fa andare manco, tanto non se ne va, è quello del porto. E allora sono andato dai carabinieri e non me ne ha fatto. E stamattina sono ritornato, cioè mia cugina lavora in questura, proprio all'ufficio di lì. Le denunce, ho detto, vieni da me lunedì e la facciamo da me. Anche se sarebbe bene a farla subito, dice, perché molte volte trovano la refutiva, dice, se tu non hai denunciato non puoi dimostrare che te l'hanno rubata per dire ieri, se per dire l'hanno trovata avanti ieri, la roba, no, cioè, non è una prova. Però se ho i dati eccetera eccetera già posso dimostrare. E mentre quella la polizia portuale a Porto Torres, se ne manco un esempio che esiste, dice dove c'è Madauro, sai tu, la strada dietro di Alghero, medio Alghero di Trentino, l'hai mai vista tu? Fate cerca la polizia portuale. Però fai una cosa, tu quando fai la denuncia ai carabinieri, con tutti i dati, il numero matricola eccetera, me ne fai una fotocopia a me di quella denuncia, che conosco come un'altra la motovalente dei carabinieri. Arrivano sino alla girata praticamente e sono tutti i giorni in navigazione, tempo brutto, tempo bello, lo escono tutti i giorni, capito? Ma era una coppia che era il comandante della motovetta dei carabinieri, allora non si sa mai che abbiamo fortuna. A me mi hanno detto che potrebbe anche essere stato. Io un sospetto ce l'ho, secondo me sono loro questi dei controlli, che si non le manutenzioni, ma le sorvegliate teoricamente, che sono mezzo loffi, nel senso mezzo tossicomani, queste persone qua magari l'hanno attaccato loro, c'avevo un presentimento, però mi hanno detto questo, e punti mi hanno detto, guarda, sono questi di questa zona particolare che l'hanno già mezzo scoperti, sono sotto controllo, però vabbè, voglio vedere. Io ho detto quando fai la denuncia e passo a te l'officina, dammene una copia, una fotocopia mi basta a me. Che è il cognato di Andrea, il presidente nostro dell'Ari, non ti preoccupare, vediamo un pochino se salta fuori. possibilità, ma intanto qualcosa non fanno niente. Loro non c'è che fare, ci sono tante, hanno una coppia alla capitaneria, ne mandano, è una coppia alla motocorretta dei carabinieri. Magari se la girano tra di loro, capito? C'è più possibilità di rintracciarti. Vediamo un po' di metterci in movimento. Vai Antonio, re della montagna, canta di alto sì stasera. Non ti posso lasciare solo, cazzo. No, io di altro dico. Cioè, danno fastidio queste cose, non la so, perché. Quando vai devono andare a metterci le mani, cose non sono loro. Porca miseria, che è un casino. Comunque è bene che si faccia la denuncia, almeno se c'è il numero di matricola e tutte le misure, ma vai tranquillo che riescono a trovarla, vabbè. No, guarda, una cosa è sicura, se in zona di qua il portatore già si trova, solo male se te la portano a Santa Teresa, che si sono in Chivi, perché a me un amico mio finanziario ha detto che hanno trovato a Castelsardo questo garage pieno di roba burata, di motori, pezzi di motori, un sacco di roba, e se andate a finire male in zona lontana dal portatore, veramente vai. A meno che non sei fortunato, che dicono mi abbiamo trovato questa roba, chi ha dei sospetti venga, come fanno molte volte la polizia, venite qua e verificatevi la messa se è roba vostra. Se è così è ancora meglio così vitti di, perché se l'hanno portata fuori è un po' maluccio poi ritrovarla, mentre ti ha ragione. Ma se c'è la guardia costiera o anche uno che fa i controlli, penso che non ce ne siano problemi. Vabbè, ok, la roba del scatole che allora è un burino, l'atletica che diciamo non rende come dovrebbe rendere, consuma molto di più, la barca, magari cammina di più, però non rende, non ha la stessa resa. Ti devi comprare il rodato, la guppiglia, cioè sono fesserie che prendi un dado devo fare in barca a 40 euro, la ghiera per fissare il coso 20 euro, cioè sono fesserie che te la fanno pagare un bel di soldi che devi usare per forza pezzi originali, non puoi usare altre cose, sono passi in pollici, ci vuole la guppiglia, quel tipo di guppiglia lì, eccetera eccetera. Sono spese, hai ragione, sono spese, si ha pagato, speriamo bene, va. Diga, ma Claudio, poco fa ho detto una parola che ci siamo dimenticati di Luca. Di Luca c'è il computer, mi ha telefonato, mi ha telefonato, ti volevo dire la cosa, sarà il computer Luca, già è qua. Quando vuoi già entra Luca, già si fa sentire, non c'è problema. Luca lì è. Farà abbassare il volume, però già il computer. Non lo vedo, l'ho messo in un'altra pagina io, ma non lo vedo. Comunque sarà sicuramente al computer. Ancora un rifugio su, come si chiama questo che sapeva lui, che ti mette a parlare, a chattare, come si chiama? Sì, Luca va a giocare a poker. C'è un programma di musica su Sky, ne ha, qua si diverte, va bene. Cioè c'hai voglia, ma io non è che mi vende, a me questo di tipo Facebook o cose del genere, mamma mia, la stabilì. No, Facebook, cosa gli va su Facebook? No, io c'ho MSN e basta. Mio personale, con mia figlia c'ha Facebook, ma non ci sta entrando neanche più. Dopo un'oretta, io mi guardo solo la posta, va. Il computer lo uso proprio per lavoro, mi guardo la posta, qualche volta mi metto a mettere un po' di musica, ci abbiamo una room di amici, mettiamo musica, ci scambiamo due chiacchiere così, ma niente particolare. Non è che mi attira più di tanto, poi mi fanno male gli occhi, vuoi stare con gli occhiali, ci sono due e basta. E hai visto che si buona a canta, che ti vedevi, che sentivi quelli cantando, come si chiama? Quello Baltax. Oh, che si buona a Luca pure a cantare, cos'era? Sì, Baltax è un programma di musica, dove canti, si fa karaoke, pure se non puoi cantare metti musica, capito? No, già... Così ti distrae un po', roba diversa. No, non mi interessa mai queste cose. Vai, fa che riprendi tra. Positivo. cose, non la sto usando. No, poi non mi piacciono neanche, la verità, sì. Non mi piace, non mi piace. Oh Claudio, stavo dicendo l'altro giorno, stavo parlando di appalti. E cosa c'è per l'HF? Cosa utilizzi tu normalmente? HF, HF, quindi 10, 20, 40, 80. Ega. No, uso l'ICOM, uso il 440 o il 430, molti uso il 430 in 20 metri, in 10 metri, il 440, uso il 140, tutti li uso io, non ne ho uno per ogni banda, te l'ho detto, tanto guarda, sono tutti uguali, i miei in banda laterale superano tutti i 150 watt, tutti. Ma non è per questi che ho visto, pure essendo apparati vecchi come concezione, funzionano benissimo, ma la laterale li ho sentiti, ma un po' di gente, i vecchi radioamatori, cioè i vecchi radioamatori, radioamatori che ho contattato, ho sentito, dice ce l'ho il 440, è sempre un apparecchio che ho valido, ma la laterale funziona benissimo. Ma io sono sempre il parere che le vecchie cose funzionano sempre meglio delle nuove. Io le ho avute tutte, non mi sono mai spostato da queste perché fai di tutto, quindi altre categorie di apparati, soprattutto la ICOM, non ha la consistenza NM che posso avere in un cable, quindi con la modulazione cable ti rendi conto che in banda laterale è molto molto spinta, è molto molto spinta. E poi vabbè, ognuno fa quel che può. Io apparati da 10 euro sicuramente non le compro. Basta quello che ho speso nei miei anni di avventura tra CB e l'arrivatore, quindi vanno bene così, ne ho tanti, vabbè, tutti diversi, però sono sempre affezionato al Kenwood e continuo ad andare col Kenwood. Avevo mezza intenzione quest'anno di versare almeno un 140, perché ne ho due, cioè 140, C80. 430, 440, tutte linee complete con PS50, con rotori esterni, quindi sono tutte linee complete, ho detto una la voglio versare e prendere una radio digitale di ultima generazione, però il TS2000 non mi piace, l'ho avuto ma non mi piace, il 920 vabbè l'ho avuto, riavverlo, sì è una bellissima radio però non mi interessa, sono andato lì sulla I, come cazzo ma ci vogliono 3002, 2007, 3100, ma vai. No, non spendo più i soldi. Ecco, sono un po' di no. No, adesso quando capita, quando c'ho qualcosa mi prendo la clonina esterna delle 440. Non te l'avevo data, come? Ah, la Natalina non l'avevo data. Ma ne hai qualcuno per te? No, vabbè, ce l'avevo del proprio del 440, quella grigia. E l'ho lavorata a Natalino. Io anch'io ho quella, me l'ho dovuta comprare, quella che è grigia però c'ha il frontalino nero, che è quella del 450, perché quella del 450 non la fanno più. Ma tanto per averne, ne sto utilizzando un'altra che ha le stesse dimensioni, non c'è niente con gli apparati, della Sony, ma è la stessa altezza del coso, sono lavata apposta. Con le nera diciamo, c'è una specie di, non dico gommapi, ma di retina leggera che trabellisce pure, l'ho messa lì vicino, però magari se c'è tutta la linea è anche più carina. Ma io ho tutte le linee complete mie, Antonio le ha viste, come sono le linee mie tu? Come sono? Verticali, orizzontali, come sono? Bella, bella, bella linea. Già va bene, già va bene. E intanto vabbè, siamo sempre di quel parere, no? Ne abbiamo già parlato. Le radio sono belle, però alla fine non è che puoi usarle tutte assieme. Anzi, io lì ci ho acceso il 440 e il 430. Sono tutte e due vicine, sono tutte e due accesi. Se voglio comodo uso l'altra, uso questa, però 140, i 240, C80 sono spenti, 706 è spento. Il 271 è spento, il C25 è spento, il 77 è spento, il 5721 è spento, sono tutti spenti. Cosa fai intanto? Sono tutti spenti. Quando ne tiri due o tre accese vanno bene. Infatti cos'è solo? Mai quando arriva la fotografia alla stazione te le accende tutte, però mi fai tenere tutte accese. È uno spreco. Ho fatto anche le coselle, ma non ho già fatte, proprio c'è la casella, è tutta per intero, ne ho già mandato parecchie, ne ho ricevuto anche parecchie. Capo dell'osmetro, appunto, l'osmetro di trasporti, cosa dici? Sogno. sentito. Poi c'era Lucariello che ha detto di riprendere subito. E poi c'era un altro sotto, che arrivava a Santiago Uno, così che non... Niente, lo sentivo piccolo. Ora, cominciamo, ora. Dopo di la chiamare la ora. Sassari Cagliari ti possono, va bene, c'è sempre il rischio che ti denunciano per interruzione del servizio pubblico, però è un rischio che bisogna correre, altrimenti non c'è la possibilità che si facciano sentire, giusto così, cioè sono parabellate una miseria, cazzo, come ti fai? Faccia il precipice in un'azienda agricola, non viene reato. Spesso ti lasciamo, non è meglio se facciamo sentire, è purtroppo così. No, ma se ti stai zitto, quelli che stanno già, gli anni hanno approfittato, più ne stanno approfittando ancora di più, è meglio che lo facciano, e se ne prendi tutto, ma tutto ne sarà. Meglio la ultima, se se non ce la fa portare la mattinata, me la porterà nel pomeriggio. Già conosce, se andrà bene, andrà bene. E ahia, così c'è tutto pronto, per domani si trabacca, va bene. Vediamoci se al momento dare fastidio. No, a me no, domani non me ne frega niente, può anche piovere, vento. L'importante è martedì, perché quando andare all'isola e sono assieme a due dirigenti, così ci finiamo tutti con l'audi. Mi rivolgo a mettere bene, perché io al 30 settembre dopo aver finito tutto, non devo lasciare niente indietro. Domani cos'è? 13. Sì, dovrebbe essere 13. 13, 15 mercoledì. 15 mercoledì, ehi, siamo già a metà mesi, già a metà mese, speriamo di farcela, perché voglio poi fare quello tanto come ti ho detto. Ehi, ehi, andrà bene, andrà bene. La domenica, dici? No, no, no, assolutamente no. Dimmelo sempre quando vuoi chiudere, lo sai, non abbiamo problemi. Quando vuoi chiudere, mi avvisi e saremo tutto, non c'è problema. Ho capito la cosa che mi hai detto ancora, ma per poi domani me la spieghi meglio. Sì, dai, non vale, te la spiego meglio. Comincia a finire. Già sarebbe anche ora, ma non me ne voglio fare nemmeno fare. E vabbè, sono tutti dimmi. Te l'ho già spiegato, non voglio avere più niente a che fare con nessuno. Voglio vivere tranquillo e sereno. Fare radio se è possibile, se non è possibile pazienza. Non c'è nessuna difficoltà. Vedo che la stiamo facendo con molta educazione, senza non preparare nessuno, quindi va bene così per tutti, ma mi sarebbe piaciuto diversamente comunque, pazienza. Ehi, capo di oggi, è davvero una testa. Va bene così, va bene, mi piace. Lui. Vado la messa si fa bassa, capisci a me. Quando l'acqua è poca, dite una pulizzano, la pappa non galleggia. E questi i dubbi che tu lavoriamo con me quando trovavamo il caposanto. Mentre di due mi sono bene e la cava è poca. Cazzo, basta. Ho fatto la stessa protesta, si è arrivato con mio collega. Ha raccontato di Giovanni. Si fa la vetta un domino. Tutti i cipirati e non ci vedeva più, cazzo. Non è stato, poi è molto in meglio. Si è parlato di dominare la meglio. Si è entrato sabato mattina, questo mio collega che è un assistente come me, e si è contato a Giovanni, che faceva autospurgoglioni, un elettricista, per fare l'ultima manutenzione in questo depuratore che c'è giù a Caralipa. Si chiama Claudio come me, questo mio collega. C'ha tutte le lacrime, ma scendevo, ma detto con le lacrime, non ce la facevo più. Perché poi non ci voleva passare il tombino, 4 metri. Solo la pillola, allora è mezza qua. E ne ha fatto, Antonio mio. Si mangiava la tutta. Adesso come hai senso per il fondo, perché è alto, più alto di me, insomma. Ma si è bucato, ha rialzato, ha bucato subito il capomura. Mi hanno riuscito, ha rialzato la scaletta. Cazzo, non è la bocca, ormai è nato, cazzo. cazzo che e ce ne ho quella che dire la guetta, no? Sul l'ha pulito tutto e poi l'ha fatto, ci fatto una cosa la bomba, l'ha detto una cosa che io e me la vi non è che l'hai pagato fuori al tombino, canto proprio con l'avanzo in linea al tombino, è largo, con il tombino là 1,50 m largo, poi 1,50 m con i quadrati ed era aperto, la scoperchiata e stavano lavando. Adesso c'è fatto invece a proprio un altro in linea al tombino con una corda di quelle piccoline che usiamo per fare trasferimenti, magari imbragare qualche cosa e spostarla. Adesso c'è cantata la corda la rua un maglione e si è fatto dritto al tombino. Spaventate, dice, cosa faccio qua? Cosa faccio qua? Senti, poi c'è un'altra rogavo, ne è uscito dalla scaletta, oh, e quando l'ho visto Claudio, fu, dobbiamo imparare io, nato, di carta gica, tu, dobbiamo messa, guarda, guarda, c'è Claudio, mi restavo una scena dell'acqua, ma la facevo più, cazzo, l'abbiamo subito, è andato subito, correndo, ce ne ha tolto tutto, sono le luci d'emergenza lì, no? Quelle sono sempre in carica di acqua, tiri la lepra e scende subito l'acqua. C'è tutto lavorato, pulito, curato lo shampoo, siamo andati all'alloggio, però abbiamo anche un alloggio a ufficio lì a Caraulifa dove c'è la foresta. Andato subito all'alloggio, ora ci ha fatto bene l'alloggio, l'acqua calda, lo shampoo, tutto. Cazzo, poi abbiamo altro che stiamo magando la giuvizia. Oia, le lacrime non scendevano. Ma tutto, gambe tutto da sarà. Mamma mia, che sì. Fortunatamente non lo fanno quella bolina, ci abbiamo quelle tutte in gomma, alte, no? A bretella, che usano anche per pescare a bagno, sai, nei fiumi, nelle cose. Ci ragazzi una tutta normale, i pantaloni qua, ne prende qualche malattia. Perché praticamente gli ha solo toccato le braccia, che erano maniche corte, infatti subito si è lavorato tutto e disinfettato con la raccolto quanto. Cazzo, ma la cosa chi l'ha fatto lì via, se non collega, che è andato ne ha fatto. E ora tutto qui non essere di Bonavini, Cacciagini, cazzo, la mia, un peso di tratto che ci ha attaccato, dici, quei strofinacci, cazzo che ci buttano, sai, ha attaccato un coso di cucivare, ragazzi, lo stivale, basta, cazzo, risalto. Sto facendo, c'è anche lì, ma non la prendiamo, sono qui. Le comunità che fanno i bambini, ce l'hanno passato una furgonetta, hai un cazzo di scelta, una furgonetta di Claudio. Così mi si mandava la girata per il tempo, ha detto vai e lavati da solo, va via, non ho pugnato in macchina, ma via un fianco, mamma mia! E non so io alzare, mi devo rigiungere, ma poi mi fai compagno. Ma infatti io poi stasera, quando è venuto a prendermi, ha detto, ma non è che ci tagliamo le macchine? No, cavolo, che ci mettiamo anche un ammazzo, se vedi com'è, mi ha raccontato tu. E che mi ha detto, lì ti vado, l'avevo lasciato, lì ti vado, lasciato, devo andare alla occasione. Ma qua non vedo, ci ha detto, fermo la macchina. Lui ti ha detto, che va, va bene lì. Ci sentiva ancora voi. Immaginati tu. Infatti la mattina faccio il primo giro, poi mi fermo alla corte che c'è la pulitura. La bomba infarata, mi ha detto tutto, mi ha detto un bel mangiolo, lo cascione. Allora tutta, la pulisco tutta la macchina. Cioè pulita, ma sento l'olio, devo disinfettare. Cos'è? Se l'ha caricato tra le cascione? E ora c'è la bucata, non ci vai, no? E c'è la bucata, non ci vai, non ci vai, tutto il caso della casa, lui. Ma la mattina, la mattina, lo arrivo giù, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo apro di qua, lo ap col cassone aperto, il fondo di terra. Ho detto che cosa aperto, ci mettere tutte quelle usagetta, usate quelle lì. Fatemi aiutare due nuovi, quando ho fatto la macchina, ho detto, accetto, fa 3-4 metri, se ti serve usale, tanto io ce li ho, come quella per te. Se la Uduisa, c'era tutto un fiato dalla metà, non era tanto più alto. Italiano, mamma mia, che ho messo. Poi quando la bella acqua si gonfia, hai visto come fa? È diventato, io sono della Michelin in Bahia, io sono mica con la Michelin. Grazie. dice Girardi. Scusi, ma perché lei quando ci grata la guardia ci riesce a neppure a voi? È bruciato, chi sa quanto per mai quello? Si è girato a me. Ma tu, ci ti ho detto? E gli agitici? E allora mi capo, e si è avvicinato l'uomo. Ha capito che gli ho detto, poi Maria, siamo a città romana, ho capito come ha fatto a ascoltare così, perché c'era una distanza, 3-4 metri. Ho detto, boh. Sì, ma io volevo ricordare come sono le cose, gli ho detto, molto, molto educatamente. Ha detto, Billy, andiamo a fare il processo, vai. E beh, ci ha ragionato. E beh, io mi la bruciava, io non avevo via di scampo. Ma se la contate di combinare ogni giorno, cosa? Io la sto tenendo, perché proprio martedì venivo mai a ragionare. Infatti, ma ragioniamo, noi dobbiamo andare a fare una cosa seria. Ci hai di rompermi la palla, no, vieni, cadi a Sassari. Se te hai tornato in bar comunque, se no non passa di là. Si deve chiusi. Per lavoratore, grandissimo lavoratore, io mai, non fui mai, è anni e anni che siamo in coppia assieme, viene con me o va con altri, ma è un piscio, un grande lavoratore. Parola vanno in vena, Yuga, voi, non c'è Cristo. Cioè quando abbiamo fatto la Polania, c'è una perdita grossa di neutralizzare il produttore, se quella Polania non la proprio apparente, quella che manda l'acqua principale a tutto della produttore. Poi è nata lo dubbio Badelli, tutti i disciplinati che ne ha bene, tanto Badelli è nata lo dubbio, ma è nata la pioggia, che te vai a raio. Senti, grazie a Dio. Ma ti sei portato che l'altro G5, il mio cugino primo grado, ha avuto la bruciata, c'è un bilo, c'è vineggia. C'è ragione. Ma è allucinante, c'è un fatto. È troppo in gamba. Se c'è di malumori, ti vado a trovare la sirena. Mamma mia. Ha un collega in coppia, siccome lui teme, infatti con me, io vado piano in macchina, no? Non è più presto, ma gli scivi da. Quando va con un altro collega di Nulvi, questo cammina, c'è un piccato, che è suonato però aperto, no? Qui piccato il fiorino, sta dentro correndo, e lui dice, vai piano Giuse, vai piano. Vai piano del tema, ha ragione, perché non va bene correre, soprattutto quei fiorini lì, quei piccati sono leggeri dietro. Si c'è stata bagnata, c'è sabbia che ha 10.000 leggi. Ho detto due volte, la terza volta guidandomi, camminendo, la porto di mano in luci, ma c'è mai ammazza, se non ti va bene la mano ti ammazza. Tu ho detto di camminare del piano, se non dovrà fare, io ti dico in coletta. Aspettare anche gli altri, le persone che hai seduto a fianco, non vanno bene queste cose, capita, non puoi pure dire così, non si ha nessuno, quando si ha nessuno ti puoi pure massacrare, hanno niente, ti dimmi, non è che ti va a venire manco, no? Lì sì, sarà comportato male due mentre teneva negli occhi, però anche quello lì, no, anche pensare che se non teme, no, non è che ti puoi fare a compiere tanto. Non è giusto. Ma è male, dobbiamo pigliare, ma è male, piano, no, tutto in coi, però si scende un tastino e ti viene un programma. Piano, usci, non so che ti ha rallentato la macchina. Bravo, non mi ha saputo qua. Mi devi voglia che vado e c'è vai, dai. Proprio davanti, non le dita, la mano davanti, proprio per non vedere niente. E si è fermato il tempo perché, cazzo, mi guardava per macchina, non lo faceva. Cassinoli che porta a Nurvi, capito? Scendendo poi dall'altra parte uscivano da Ocio, qui tutto curve, e lì scende anche il pullman di linea. Certo. Ragazzi, un pullman di linea con la mano in faccia, io penso che ti bacia la macchina. Sì, ma non vanno bene le cose, uno deve camminare, non deve camminare in macchina, deve andare tranquillo, specialmente quando c'è gente seduta in macchina, siano colleghi, bisogna rispettare, capito? Non bisogna di correre, ammazzarsi e di fare male a nessuno, la guida deve essere tranquilla, serena, non la si porta a mezzo, specialmente quando è un mezzo di lavoro che non è tuo. Ma poi perché correre, non c'era il problema, ne abbiamo fretta, no? Non abbiamo fretta, né tabella di marcia, né nessuno che ti persegue, te l'ho sempre detto. L'importante è uscire a lavorare e sapere che dobbiamo rientrare tutti. Non dobbiamo né ammazzare la gente né farci ammazzare. Andare piano, tranquilli, sereno. Devo mangiare una vita, molto calma, passeggio, no? Non mi invito a essere, tanto c'ho tutta la mattinata. Ho 8 impianti più 4 sollevamenti da controllarmi, perciò è già constatato che facendoli con molta tranquillità, senza correre, anche se c'è un problemino in qualche impianto, riesco sempre a terminare mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e un quarto, posso fare anche l'una meno un quarto, ma non più tardi, quindi qual è il problema? Chi ti esce di là e di corria e va. Poi se non ce la fai di mattina hai 2 ore e mezza da recuperare di pomeriggio, te li fai di pomeriggio, però io sino adesso ce l'ho sempre fatta. No, ma questo ce l'ha proprio, siccome è di Nurvi, no? Le piace lo sterrato, le piace correre le macchine, infatti c'è una Peugeot tutta con i cerchi larghi, tutta piena di adesivi, rally qui, rally qua, rally. Cazzo, guarda la macchina dei laghi, sta piena dei cibi, va l'acqua, disegnata da Lanzaro Goffo, Zerra, Gomi, cazzo, ma tu non posso anche qua, fa la piedi, vai, gira a me, guarda, ne faccio col tico, cazzo. Ma il capo ci ha vedato, ma sì, cazzo, bu, no, lo io. È uno un po' così, capito, dava passione, ma appassionato di macchine, che ne piace correre. E che andavo con macchina sempre a 1000, cioè due volte l'ho letto, bisogna il piano, stare attento, mi c'è come dice col fiorino, e un attimo le valigie, cambio la porta, e cambio la porta e invece di tutto dentro, importante non mi gioco io. E infatti, no. Allora così è essere dei coscienti, non va bene, no? Chi se vuoi pagano se arriviamo nei tuoi, si vorrebbe mettere i fatti tuoi. Poi quando tu ti piace, ma anche il mezzo di servizio non è che puoi fare, insomma, da un mezzo di servizio da un fiorino con quella macchina addosso, dice non è il capo. Ma poi che se ti vedono, se ti trovano correndo qualche dirigente, qualcuno che conosce la macchina, diciamo tutte le scritte, o c'è scritto Turritana Costruzioni, o c'è scritto Barolo, o c'è scritto Accionava, sono tutte del gruppo, quindi cazzo di vedi con una macchina del genere, guarda che metto dall'altro, dicono dirigente, te ne prendo la macchina e vai a piedi. Caro mio, il discorso è quello, non c'è niente da fare, con le macchine bisogna andare piano, perché devi uscire a lavorare, rientrare e basta, e soprattutto non devi ammazzare nessuno. Cazzo di figlio, che si carrevi, prova a fare dottore c'è stentino estate, come l'ho fatto io tutto il primo di agosto, tanto ci mettevo uno e un quarto a andare a stentino, uno e un quarto da pallottone. Ma è così, cari, è così, quando uno è godente, ma c'è vecchia lula, ma cazzo non è che uno se ne andava a sciabedasco, Molta gente c'ha la testa che le funziona poco, e comunque gli ha detto, e poi la oggi a me non venire più a bene perché non mi scelgo più con te, ma aveva anche detto a me, ma tu hai io mi scelgo più con lui, perché cosa ti ha fatto? Cammina troppo in macchina, è spericolato, io ho famiglia, non devo morire. macchina con lui. Infatti gli avevo detto, un po' già si è calmato, ma è sempre anche di Brescia, parlo. È sempre anche di Brescia, venuto da qua. E mi stava dicendo qualcosa, questo mio collega ci c'era un incidente l'altro giorno lì al curvo, ma non so che sia successo di Apollo Torres. Sassari, non lo dico. con certezza, ecco, molto contro furgone, molto giovane. Aspetta, mi rimetto gli occhiali. E questo nome, infatti, quando ho sentito Pietro Carboni, noi di Carboni ne abbiamo tre o quattro, ma sono Gavino, Antonio, Giuseppe. Ecco, tragedia sulla strada dei Romani, questo te l'ho già letto. Allora, Pietro Carboni è stato sbalzato. Per Pietro Carboni non c'era più niente da fare. Pietro Carboni. Allora, aspetta, se lo dice qua, 28 anni di Sassari, no, non dice niente, sempre di Sassari parla, non parla di nessuna frazione. Ah, ecco qua, Pietro Carboni abitava nella Campanella, così come Marco Vacca, la frazione lungo la strada dei Due Mari, a pochi chilometri da Porto Torres, dove la vittima era molto conosciuta. Grazie. Domani vi gioco io, chissà domani. Noi bisogna abbonare perché i gironi campani da sono là. Ti ha pagato. Yes. Dopo i 28 anni, no, vedi, perché se ne arriva molto meno. Molto meno. Cazzo, Pietro Carboni mi sono ascoltato i tre capita. E no, poi quando mi ha detto con l'età, 28 anni, no. Poi lo già, io non ho più, ci sarei già più piccolo. Però vedi, un nome, un nome preciso. Io oggi con il figlio Panotti, guardi, mamma mia, me la pulisce male il capo, me li pulisce qua. Ma la vita è guido molto, ma sai quante volte per colpa degli altri me l'ho vista brutta io. E quindi ha giudito basta. Basta, proprio perché è una passione troppo grande e quindi riesci sempre ad averla, ma quest'anno poche volte l'ho usata. No, va bene, poi in quel periodo il problema sai qual è, tu devi stare attento agli altri, perché questi turisti, poveracci, non è che c'era sempre colpa, c'è un momento bene l'articolo per sapere come è successo, però questi cambiano, frenano di colpo perché mai sbagliano strada e girano i usci velocemente, perché sai, purtroppo non conosco la strada. Quindi questo riflettore, sto bivio adesso, io non ho letto se il furgone che mi ha dato precedenza, allora sono passati a forte velocità, non hanno visto il furgone, ma io conosco perfettamente quella strada. Bisogna andare piano, una che è piena di sabbia, sempre, è trafficata da trattori, da macchine operatrici, articolati, eccetera, quindi bisogna andare piano. E invece ci può andare a corrire e poi trovano l'ostacolo e quindi ciccia. Infatti. Io ho sempre detto prudenza, e purtroppo non mi pensa. Beh, Claudio, e da che lo so? Come te garette, anche a come te garette, dice il Morese, sì, sono le 10:30, tanto una sciacquattina, mi guardo un pochino in TV, la spiego tutto anch'io, che domani si trabacca. Ok, come sempre, solito posto, attente, io sono lì, uscirò verso le 7:20, mi faccio il controllo qua via Milano, poi ti raggiungo, ci prendiamo il caffè e proseguo. Ok, ci vediamo domani mattina allora al caffè, dai. Ciao Matteo, buonanotte, saluti a casa, un bacio, a domani, grazie alla compagnia. Via, grazie alla compagnia, anche a te, Claudia. Ci vediamo tutta domani, se Dio vuole. E niente, noi ci diamo la caffeina e si inizia di nuovo la settimana. Cappa di noce. Fatto molto piacere sempre. Saluto da te, QRA, e passa una buona notte e tutta domani. Ciao Claudia. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao. Come ti hai detto, Sagira? Ciao.